24 mattino. Le 8 e 18 minuti, ben ritrovati a 24 mattino, eccoci qua, il numero per i vostri messaggi 349-238-6666, è il momento di economia. Soldi e dintorni. Deborah Rosciani, ben ritrovata. Buongiorno. Buongiorno, già stavi protestando di prima mattina. No, stavo ridendo perché prima dicevi che ancora su questo treno che è arrivato in ritardo. Ma guarda che l'hai reintrodotto tu il dicendo discorso. Dicendo che era una giornata non di tanti non di particolare traffico. Ti informo che non c'è il traffico sui binari, quindi i treni vanno santo comunque. Cielo, guarda. Vabbè, dai, parliamo. Ne parliamo un'altra volta, soldi e dintorni magari, guarda. Sì. Va bene. Ecco. Oggi invece parliamo di call center, sì. Call center di un settore particolare peraltro. Sì, allora in termini generali ormai i call center fanno parte della nostra vita quotidiana, la banca, il gestore telefonico, il fornitore di energia elettrica e del gas hanno tutti un servizio di call center per fornirci le informazioni, più spesso per raccogliere reclami, ma Alessandro, sai qual è il call center più strano al mondo che abbiamo individuato ieri? No, il quiz. Ho già le cuffie per Hai già il le quiz, cuffie, sì. Quindi adesso faccio scattare il countdown. Lo hanno inventato gli arabi di Abu Dhabi. È il call center delle fatwa. È un servizio attraverso il quale i fedeli possono trovare risposte a tutti i loro quesiti sul comportamento islamico scorretto. Ma guarda che è seguitissimo, è una cosa... Guarda, adesso dobbiamo cercare questo numero e provare a chiamare. A parte questo, comunque, tornando al nostro paese, a tutti noi è senza dubbio capitato di restare in attesa per ore nel tentativo di parlare con l'operatore del call center che ci serviva e di non riuscire ad ottenere l'informazione di cui avevamo bisogno. Però un call center efficiente, funzionale e rapido può contribuire a rendere competitiva la stessa azienda di vendita. E allora, per testare la soddisfazione dei clienti, l'autorità per l'energia e il gas ha svolto un'indagine proprio sull'attività dei call center di 25 venditori di energia elettrica e gas con più di 100.000 clienti finali. Chissà com'è finita questa indagine. Stamattina ne parliamo con Alberto Grossi, direttore area consumatori e qualità del servizio dell'autorità del gas per l'energia e il gas. Dottor Grossi, buongiorno. Buongiorno a tutti. Intanto mi deve subito dire se il vostro call center funziona perfettamente. Avete testato anche il vostro? Ma noi abbiamo messo a disposizione un call center gratuito e funziona bene nei nostri standard, quindi con tempi di risposta rapidi e riesce a rispondere praticamente a tutte le chiamate. Allora andiamo invece a quelli che avete monitorato, quelli praticamente degli operatori che distribuiscono gas ed energia nel nostro paese. In realtà il monitoraggio che avete fatto, che è stato effettuato nel secondo semestre dello scorso anno, è stato l'ultimo di una serie, dottor Grossi? Ma diciamo, è stato il primo di una serie e che riflette la regolazione che l'autorità ha introdotto per misurare la qualità dei servizi telefonici. Questo perché il call center è diventato il canale di contatto più importante per il cliente per mettersi in contatto col proprio fornitore di energia. Abbiamo individuato tre standard di qualità che sono: uno, l'accessibilità al servizio, cioè la possibilità di trovare sempre la linea libera per mettersi in contatto con il servizio; un secondo parametro che è la qualità, che si compone di tempi di attesa che devono essere bassi, e un livello di servizio alto, cioè la possibilità per un elevato numero di percentuale di clienti di poter parlare con un operatore. Ecco, tra l'altro sul tempo di attesa, dottor Grossi, sono incuriosita, qual è lo standard minimo sul quale non transigete? Dunque, noi abbiamo previsto che ci debba essere un tempo medio di attesa minore di 240 secondi. Secondi. Questo tempo minuti, medio su tutte le chiamate prese nel semestre preso in considerazione. Ecco, è anche importante dire che noi facciamo questa classifica ogni 6 mesi perché diamo la possibilità alle aziende ogni 6 mesi di migliorare, quindi di scalare la posizione guadagnando e portandosi verso la cima. Tant'è vero che in questo momento è in corso la nuova rilevazione, no? Sì, certo, è una rilevazione che verrà ultimata, penso, con questo mese, e la classifica verrà pubblicata verso settembre, appena dopo l'estate. Ancora non andiamo a dare ai nostri ascoltatori il risultato dell'indagine precedente. Come avete fatto la prova, dottor Grossi? Avete fatto chiamare i vostri dipendenti, i call center degli operatori? No, noi abbiamo incaricato con una gara europea una delle migliori aziende che fanno indagine demoscopica e utilizzando una tecnica ormai consueta, che è quella della richiamata o callback di clienti che avevano appena parlato col call center del fornitore di energia. Quindi somministrando un questionario e in base a questo questionario raccogliendo un punteggio. Questo per quanto riguarda la soddisfazione dei clienti. Per quanto riguarda gli altri due parametri, cioè accessibilità al servizio e qualità del servizio, l'abbiamo stilato il punteggio parziale sulla base dei dati che ci comunica ciascun venditore di energia. Poi componendo i tre punteggi parziali siamo arrivati al punteggio globale, quindi a stilare e a pubblicare la classifica di questi 25 venditori. Ecco, a proposito di obblighi di servizio minimi sui quali l'autorità dell'energia e del gas esegue appunto il monitoraggio, parlavamo dell'accesso al servizio, della qualità del servizio, di grado di soddisfazione dei clienti, naturalmente tutti i parametri che hanno a che fare anche poi con l'operatività concreta dei call center, l'orario di apertura del call center per esempio, è un tema che vi interessa? Ecco. Assolutamente, noi prevediamo che ci debba essere un numero minimo di 35 ore di apertura settimanale, quindi con un operatore al call center, che viene aumentata a 50 ore se in quella provincia il venditore non ha uno sportello fisico, certo, cioè la possibilità per i clienti di recarsi in un ufficio e parlare direttamente con un operatore. Perché è proprio in queste circostanze che il call center è particolarmente utile. Assolutamente, diventa indispensabile perché praticamente è l'unico canale a disposizione del consumatore per parlare dei propri problemi. Dottor Grossi, su un punto siamo d'accordo, tutti questi servizi di call center delle società che erogano energia elettrica e gas sono tutti gratuiti? Devono dare un call center gratuito almeno da linea fissa, se il cliente poi chiama da cellulare questo non è obbligatorio, però almeno da linea fissa deve essere una linea verde, quindi gratuita. Andiamo al podio della vostra indagine, allora chi è stata assegnata la medaglia d'oro? L'ha presa la Edison Energia, Edison Energia che poi è stata seguita da altre aziende più o meno note, ma la cosa più interessante è che i grandi nomi si sono posizionati a metà classifica. Quindi questo significa che intanto la classifica ha colto un problema reale, perché va anche detto che questi grandi operatori si sono cimentati maggiormente con il mercato libero, che quindi crea maggiori problemi di un venditore che si tiene i propri clienti senza cercarne di nuovi, ma dà anche uno spazio di crescita, di miglioramento per questi stessi operatori. La metà classifica, dottor Grossi, equivale ad una insufficienza, ad una bocciatura del servizio? No, diciamo equivale ad una sufficienza che però può migliorare, che può diventare un buono. Tanto più capisce se stiamo parlando di grandi aziende che hanno investito molto in questi servizi e che quindi devono ottenere un servizio migliore da queste infrastrutture di cui si sono dotati. Allora, ci risentiamo tra qualche mese invece per verificare appunto se le società che si trovano a metà classifica in posizioni basse sono riuscite a migliorare nella graduatoria. Dottor Grossi, grazie per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Buona giornata a tutti. Alessandro. E allora eccoci qua, alle 12 Salvadanaio parliamo un po' di operazioni straordinarie sul mercato, come per esempio la grande operazione di aumento di capitale di Enel, cosa vuol dire, come si concretizza per i piccoli risparmiatori. Le 8:32 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, uno sguardo alle notizie in primo piano. Sono stati avvistati i primi rottami dell'Airbus A330 dell'Air France in volo da Rio de Janeiro a Parigi, è scomparso con 228 persone a bordo. Restano però ancora misteriose le cause dell'incidente, tra le quali non si può escludere l'ipotesi di un attentato. Ne parleremo alle 8:45 più approfonditamente. La politica, il presidente Napolitano torna a invocare più misura nella campagna elettorale. Ho vissuto tanti periodi elettorali incarogniti, ha detto il capo dello Stato. Mi auguro che tra 3 giorni si metta un punto a una competizione fuori tono. Il presidente americano Obama è partito per il Medio Oriente, andrà in Arabia Saudita prima e poi in Egitto, dove al Cairo terrà un discorso molto atteso domani dal mondo musulmano. Torna a farsi sentire anche Al-Qaeda con il suo numero 2 Al-Zawahiri, che in un messaggio su internet definisce Obama un criminale. Infine il calcio, Kakà è a un passo dal Real Madrid, lunedì potrebbe esserci l'annuncio ufficiale, ieri il numero 2 del Milan Galliani era in Spagna e Berlusconi dice difficile trattenerlo, ma non c'è ancora l'accordo definitivo, il Milan chiederebbe 80 milioni, il Real sarebbe disposto a darne 65. E allora alle 8:33 minuti, eccoci qua, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Cari automobilisti che siete in viaggio probabilmente, avrete letto, avrete sentito della ennesima, e usiamo tutti i condizionali, possibile truffa, perché poi tante cose vengono rivelate, poi chi lo sa, degli autovelox scoperta dalla Guardia di Finanza di Sala Consilina. 70 comuni italiani sarebbero state installate delle macchine chiamate Velomatic non regolari, con tante multe, per la precisione oltre 81.000 multe, 11 milioni di euro rotti, tolti agli italiani, che ora andrebbero restituiti, immagino, infuriati i consumatori, subito pronti, date i soldi indietro, date i punti indietro, eccetera. Cerchiamo di capirci qualcosa di più. Saluto Maurizio Caprino, buongiorno Maurizio. Buongiorno a tutti. Insomma, del Sole 24 Ore, un blog molto seguito, Strade Sicure, molto esperto, e poi ci aiuti a capire qualcosa di più. C'è anche un sindaco che è con noi, che tra poco presento. Maurizio, innanzitutto, è una truffa, bisogna usare condizionali, cos'è il Velomatic, spiegaci qualcosa. Dunque, rispetto ad altri casi analoghi del passato, io direi che qui c'è più sostanza, se non altro perché le persone implicate non sono nuove, diciamo, sono soggette a indagini da quasi una ventina d'anni, per cui oggettivamente c'è un comportamento sempre disinvolto, questo a prescindere poi dalle condanne eventualmente riportate, perché poi a processo un po' tutto si stempra, insomma, però di sicuro i dubbi ci sono. Sono dubbi, ripeto, legati più alle persone che agli apparecchi, perché gli apparecchi in sé sono regolari, non esistono in commercio dispositivi non omologati. Il problema qual è? Che bisogna verificare gli apparecchi periodicamente, e per risparmiare su queste verifiche periodiche, diciamo, queste persone avevano 40 apparecchi ma ne verificavano soltanto un paio. E quindi poi... perché costa fare le tarature, insomma. Sì, perché costa. E allora che cosa dicevano? Che cosa facevano? Facevano risultare sui verbali che le velocità erano rilevate soltanto con due di questi apparecchi, che quindi automaticamente, stando ai verbali, operavano contemporaneamente in tutti e quattro gli angoli d'Italia. Un po' tutta Italia. Tra l'altro, l'elenco di tutti i 70 comuni interessati lo trovate sul sito del sole24ore.com. Sono 5 in Abruzzo, 13 in Calabria, 24 in Campania, 1 in Emilia Romagna, in Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, insomma un po' ovunque. Allora, io voglio salutare il sindaco di Camini, Reggio Calabria, buongiorno. Buongiorno. Anna Micelotta, so che è preoccupata, non stia tranquilla, non siamo qui perché abbiamo letto che a Camini ci sarebbe uno di questi strumenti, ma so che lei già ha delle precisazioni, e che sarebbero state fatte ben 13.000 multe in un anno solo nel comune di Camini. Allora, ci spieghi, è davvero così, insomma? Sì, innanzitutto devo chiarire questa cosa. Il nostro apparecchio non è un Velomatic, ma è un Traffic Hot 3, postazione fissa. Quindi è diverso dal Velomatic, che in questi giorni viene spesso e volentieri citato. Però è fornito dalla stessa azienda. Vabbè, per cui il fatto che sia fornito dalla stessa azienda, noi nel momento in cui abbiamo fatto l'installazione di questo autovelox, con tanto di prima pareri favorevoli per quello che riguarda l'installazione innanzitutto da parte del prefetto, poi per quello che riguarda l'installazione su quel tratto di strada dall'ANAS, che è l'ente proprietario della strada, e di conseguenza, dopo aver avuto questi permessi, abbiamo fatto una delibera di consiglio e abbiamo demandato l'ufficio tecnico per porre in essere tutte, insomma, fare tutta la procedura. La procedura che segue. Sa perché sindaco, mi scusi, glielo chiedo perché oggi, per esempio, il presidente dell'ACI, Enrico Gelpi, in un'intervista al quotidiano nazionale, insomma al Resto del Carlino, è molto duro, dice: non se ne può più di questi vengono utilizzati questi strumenti per rubare i cittadini. E dico anche un segnale. Non è vero. Allora, poi che così risponde a questo. Anche i comuni utilizzano gli strumenti non tanto per scopi di sicurezza quanto per arrotondare i bilanci. Allora, su questo, per quello che io non posso rispondere per altri comuni, ma per quello che riguarda il mio comune, dietro tutta questa storia dell'installazione dell'autovelox c'è una storia di morti. Di morti che ha indotto normalmente il prefetto, quando io ho fatto richiesta, visto e considerato che su quel tratto di strada nessuno aveva voluto fare nessun altro provvedimento, diciamo, mi ha dato questa autorizzazione dopo che effettivamente ha constatato che avevamo cercato altre vie e che su quel tratto di strada le morti erano in un numero impressionante. Per quello che riguarda l'autovelox di nostro possesso, le posso dire che noi abbiamo tutte le certificazioni, le dichiarazioni di omologazione, il certificato di omologazione, che in un primo momento potrebbero sembrare due cose uguali, ma le assicuro che non è così. Perché la dichiarazione di omologazione vuol dire che quel tipo di apparecchio con quel numero di matricola È conforme. Ma da questo punto di vista, guardi, io vorrei che anche Maurizio Caprino, credo, le venga insomma in soccorso a dire: Maurizio, io ho letto molto attentamente quello che tu ieri hai scritto anche sul blog, a dire: noi italiani siamo un po' così, cioè quanti possono dire di aver ricevuto chiamate da amici a dire: ho ricevuto una multa, come faccio a farmela togliere? E tu gli dici: beh, ma perché ieri in divieto di sosta? Vabbè, sì, dai, ieri in divieto di sosta. Allora, cioè c'è questo costume per cui tu l'hai scritto molto tranquillamente: forse verranno restituiti tutti i soldi, punti, ma tu sei convinto che questi italiani che sono passati da in quelle macchine in realtà hanno violato il codice della strada e andavano veloce così? Sì, io ne sono assolutamente convinto, perché faccio questo mestiere da 15 anni e da 15 anni ricevo richieste di questo tipo, ma nessuno mi ha mai detto io in realtà non ho commesso l'infrazione. Il punto vero è sempre quello di evitare la sanzione. Quindi oltretutto questi apparecchi qui, se anche non sono verificati annualmente, sono generalmente, hanno dei meccanismi tali che se non funzionano si mettono automaticamente fuori servizio, quindi non funzionano. Quindi è molto raro che uno ci vada in mezzo se è innocente, insomma. Chiaramente può succedere, però succede veramente a pochissime persone. E poi devo dire, ho visto al telegiornale le immagini del tratto della statale ionica dove c'è il rilevatore di velocità del comune di Camini, effettivamente lì il 70 all'ora credo proprio che ci voglia. Sì. Quindi sgombriamo il campo, però è chiaro che i controllori devono a loro volta diciamo non dare adito neanche al minimo sospetto. No, ma questo senza dubbio, voglio dire, cioè che verranno restituite, adesso ci spiegherà anche come, probabilmente verranno tolte le multe, verranno restituiti i soldi, punti, questo è vero, però è anche vero insomma che non è che vuol dire che uno lì passava 50 all'ora e la macchina ha rilevato 100 all'ora, ecco, chiariamo. Assolutamente. E poi l'intervento dei vigili urbani secondo me è necessario, non solo perché i comuni vogliono fare cassa, esistono anche quelli, però se togliamo i vigili urbani dalle strade, a chi affidiamo la nostra sicurezza? Per caso alla stradale? La stradale fa quello che può, ma ha pochissimi uomini e pochissimi fondi, certo. Allora, tra l'altro, ancora ci chiedono come fare a sapere i comuni. Andate sul sito del Sole 24 Ore, ci sono tutti. Io 70 non li posso leggere, quindi sul sito del Sole 24 Ore sono lì, c'è tutto l'elenco dei comuni e ci sono. Allora, Maurizio, le multe, i consumatori sono infuriati, il Codacons figurarsi subito dopo 0,01 secondo dalla notizia si è fiondato a dire restituite tutto, però di fatto sarà così, cioè le persone che hanno preso queste multe, se davvero questi sistemi non erano tarati, insomma erano irregolari, va restituito tutto, soldi, multe, punti, che si fa? Che si può fare? Ma io direi che la cosa più ragionevole è che i comuni facciano una verifica verbale per verbale e laddove riscontrano che c'è un falso in questo verbale, quindi che il numero di matricola dell'apparecchio è diverso rispetto alla realtà, oppure altre irregolarità che poi la Guardia di Finanza ci spiegherà meglio, facciano una cosiddetta autotutela, quindi di loro spontanea iniziativa restituiscano i soldi. Se non lo fanno, allora chi ha una multa fresca può fare un ricorso al giudice di pace con i normali mezzi previsti dal codice della strada, quindi entro 60 giorni dalla notifica andare al giudice di pace o addirittura anche al prefetto, è più semplice, in questo caso credo che non ci siano problemi. In altri casi, diciamo altri casi in cui questi 60 giorni sono passati e il comune non fa l'autotutela, lì ci sarà eventualmente da costituirsi nel processo penale, che probabilmente ci sarà, e aspettare che finisca questo processo, insomma, penale. Insomma, non è così semplice. Sindaco di Camini, Anna Micelotta, lei ha sentito, che farete adesso? Perché dovrete controllare le multe una per una? Allora, oppure... appunto, le stavo dicendo questo. Noi abbiamo i certificati di omologazione e di taratura. Le chiedo scusa, prima bisogna verificare che queste cose siano false. Cosa che io dubito, perché se io in mano ho un certificato della ditta che mi dice e poi il centro SIT mi viene a fare una verifica sul posto, alla quale peraltro io ho assistito personalmente per quello che riguarda la taratura, dubito che questo apparecchio che noi usiamo possa avere delle cose irregolari. Comunque sia, nel momento in cui avremo risultati diversi ci regoleremo di conseguenza. È chiaro che nessuno vuole truffare nessuno. Ma come mai così tante multe? Se ne ha letto... Perché guardi, se lei ha visto il filmato che è stato mandato, diciamo quel tratto di strada è la statale 106 che fa da collegamento con tutta la costa ionica, di conseguenza il traffico è molto rilevante in quel tratto di strada, per cui diciamo che nell'arco di un anno è normale che ci sia questo numero così elevato di multe, però giustamente come diceva anche il giornalista, il dottor Caprino, è chiaro che se gli automobilisti commettono le infrazioni, nonostante ci sia la segnaletica che avvisi del limite di velocità, la segnaletica che avvisi che lì c'è una postazione di autovelox senza l'obbligo della contestazione immediata, i lampeggianti che avvisano che c'è una postazione autovelox, voglio dire, se gli automobilisti sono avvisati in tutti i modi, in tutte le maniere, come si può fare a renderli più disciplinati? È una domanda alla quale gli automobilisti dovrebbero avere la bontà, e anche queste associazioni dei consumatori dovrebbero dare loro. Ma guardi, che gli automobilisti siano indisciplinati, si sa, lo sappiamo che siamo indisciplinati. Sì, ma sono indisciplinati, le chiedo scusa. Allora qui dovremmo diventare una sorta di anarchia dove non ci siano regole, dove ognuno faccia un pochino quello che gli pare, dove giustamente viene messo in discussione anche un verbale fatto dalla stradale, dai carabinieri, da un vigile urbano, perché ognuno a quel punto si vuole tutelare, perché c'è un'associazione, un qualcuno che va a prendere le difese di chi commette le infrazioni. È giusto che gli automobilisti rispettino le regole, come è giusto che noi enti, comuni, amministratori ci curiamo che i mezzi adottati siano nella norma di legge. No, ma infatti io vorrei concludere. Allora, Maurizio Caprino, oggi sempre a corollario di questa intervista al presidente dell'ACI, il quotidiano nazionale insomma fa una provocazione, dice una lettera al ministro Matteoli, dice ormai le truffe sono talmente all'ordine del giorno, con coraggio ministro le chiediamo una moratoria su questi congegni diabolici, niente meno, insomma. Ecco, forse questo è l'approccio proprio sbagliato, Maurizio, no? Sì, è un approccio assolutamente sbagliato, piuttosto bisogna destinare fondi, perché queste cose succedono soprattutto perché ci sono pochi soldi da investire nella sicurezza stradale, perlomeno in questo tipo di controlli. Allora, per esempio, aiutiamo i comuni insomma si incravattano con questi noleggiatori, accettano di corrispondere a loro delle altissime quote, diciamo, sugli incassi effettuati, proprio perché non vogliono rischiare delle proprie risorse in questa attività, perché dicono se le multe diminuiscono poi alla fine ci resta la spesa del fare il controllo. Questo non è più accettabile, ecco, è un problema di risorse e di moralizzazione. Poi purtroppo abbiamo tanti limiti di velocità troppo bassi, perché abbiamo delle strade che fanno letteralmente pietà, e questo però è un altro capitolo, insomma. Questo sì è un altro capitolo sicuramente. Allora, le 8:47 minuti, io vi ringrazio Maurizio Caprino del Sole 24 Ore, autore anche di un blog molto seguito, Strade Sicure, così come ringrazio il sindaco di Camini in provincia di Reggio Calabria, Anna Micelotta. Allora, sono le 8:50 minuti, siamo ormai in battute conclusive, in realtà abbiamo fatto un pochino di più con la prima parte. Ci sarebbe da parlare di questo Airbus A330, davvero un mistero quello che è successo, la scomparsa. Devo dire che i resti rottami sono stati trovati della 330 del Air France in volo da Rio de Janeiro a Parigi, scomparso con 228 persone a bordo, tra queste ricordiamo ci sono anche 10 italiani. Sostanzialmente poco fa il governo parigino ha detto che non ci sono più dubbi, lo Stato Maggiore delle Forze Armate francesi ha detto non c'è più alcun dubbio sull'origine dei resti trovati nell'Oceano Atlantico. Effettivamente ci vuole una conferma formale, però chiaramente sono i resti dell'Airbus A330. Il mistero è su che cosa si possa essere successo. C'è da dire che anche ieri, leggo dal Corriere della Sera, Rosario Priore è un giudice famoso, quello che indagava su Ustica, sul 19 dell'Itavia scomparso a Ustica, disse ha detto ieri sostanzialmente, ha parlato di impressionante analogia, dice: ciò che lascia perplesse è proprio il fatto che nessun Mayday, cioè nessun segnale di allarme, sia stato lanciato dai piloti, e dunque una vicenda misteriosa che rassomiglia moltissimo a quanto accadde alla 19 dell'Itavia. Dobbiamo parlare appunto di questo A330. In realtà avevamo un collegamento previsto, che è con l'inviato della rivista Volare, Andrea Artoni, ma questo è il bello della radio, in questo momento il suo telefono è occupato, sta facendo una serie di interviste che noi non sappiamo, e dunque non può essere in diretta con noi. E allora vi voglio leggere quello che Giovanni Caprare e Alessandro Mangiarotti scrivono sul Corriere della Sera oggi su questo mistero del volo, sostanzialmente. Quello che è successo alle 4:15 ora italiana di notte, con il cervello del jet dell'Airbus, che avrebbe trasmesso dati anomali del bariometro, il che vuol dire sbalzi di quota fortissimi registrati dall'indicatore della velocità verticale, problemi all'impianto di pressurizzazione, insomma quello che potrebbe far supporre una possibile depressurizzazione improvvisa in cabina, che avrebbe portato a far perdere quota completamente all'Airbus A330. Il che vuol dire che non è neanche esclusa una ipotesi di un'esplosione e dunque di un attentato anche. Si chiede anche, tra le varie ipotesi, un fulmine potrebbe aver causato un cedimento strutturale? Assolutamente no, il fulmine potrebbe essere stato al limite una concausa, ma sicuramente un fulmine non è quello che può far cadere un aereo. L'ultima segnalazione è quella della questione dei radar. Spesso si è detto dei radar, ma quando un velivolo trasvola gli oceani spesso si trova fuori dai radar, e per questo, scrive Giovanni Caprara, questo è un problema che è vissuto anche dall'aviazione internazionale, e per questo si sta cercando di mettere una pezza, insomma, a questo problema, perché sostanzialmente quando un jet si allontana, scrive Caprara, oltre 350 km dalle coste, si proietta in uno spazio nel quale solo i piloti hanno cognizione della posizione grazie agli strumenti di bordo. A terra lo sanno sulla carta, perché prima del decollo la rotta è rigorosamente pianificata, però sostanzialmente quando si è fuori dai radar è difficile sapere esattamente dove si trovino i velivoli. Tutto questo vuol dire il mistero davvero che circonda questo Airbus. Ovviamente, come potete immaginare, sono fiorite subito le leggende su internet che fanno spazio, c'è chi parla di UFO, c'è chi addirittura ha tirato in ballo il triangolo delle Bermuda, posizionandolo decisamente qualche migliaia di chilometri più a sud rispetto a dove è successo il disastro di questo Airbus. C'è da dire che davvero questo però è un incidente incredibile. Chissà se mai si arriverà a scoprire la verità, visto che dove è caduto, tra l'altro, l'Airbus c'è una profondità di circa 4-5 mila metri dell'oceano, e quindi chissà se si riuscirà a scoprire anche e a recuperare la scatola nera. Detto questo, allora ci fermiamo. Tra poco c'è Giuliano Ferrara, compariamo con l'elefante, torna con noi e parla della vicenda Opel Fiat, vicenda andata male, insomma, per la Fiat, per quel che riguarda l'accordo. Noi invece ci ritroviamo domani mattina, ovviamente. Ringrazio Laura Marchesi in redazione e Alessandro Marco Tulli. C'è una mail alla quale potete scriverci: 24mattino@radio24.it. A domani.